24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:30 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua in diretta con 24 mattino fino alle 9. E allora nel nostro sondaggio di oggi parliamo, prendendo spunto da questo terribile fatto di cronaca nera un paio di giorni fa, l'uccisione da parte di un uomo di due ex fidanzate, poi si è tolto la vita, del reato di stalking, vale a dire quello di molestie. C'è questo reato? Vi chiediamo, da quando c'è questo reato vi sentite più tutelati dai molestatori, dalle molestie? Dovete votare su radio24.it nell'homepage, bianco o nero. E ora andiamo a vedere che cosa ci propongono i giornali in edicola. In primo piano. Venerdì 2 luglio, di certo ancora le intercettazioni con tutti gli annessi e le polemiche politiche sono la notizia del giorno. Per quel che riguarda il Sole 24 Ore, invece, l'apertura economica, tassa sanità da 630 milioni. E poi c'è anche questo giallo che si è profilato, avete sentito anche nel GR sulle pensioni per qualche ora ieri. Oltre 40 anni di contributi per la pensione, ma Sacconi frena. E poi appunto il tema intercettazioni, le critiche di Napolitano per il Corriere, Repubblica, legge bavaglio, l'alt di Napolitano, per la Stampa, Napolitano, non mi ascoltano, il Messaggero, intercettazioni alto là del Colle. Come vedete, queste le aperture di alcuni quotidiani. Che cosa è successo ieri? Napolitano, che era in visita di Stato a Malta, ha certo fatto alcune critiche esplicite al disegno di legge in discussione sulle intercettazioni. Ha ricordato i punti critici delle DDL, che sono sotto gli occhi di tutti, risultano chiaramente dal dibattito in corso, sono gli stessi punti critici che preoccupano il Quirinale. Questo racconta Donatella Stasio a pagina 15 del Sole 24 Ore. Tra l'altro ieri c'è stato anche un nuovo affondo di Fini. Allora, sul tema intercettazioni si sta giocando la partita politica più forte all'interno della maggioranza. Anche oggi, guardate, qualsiasi giornale punta proprio su questo scontro, che sembra diventato veramente uno scontro ormai molto molto serrato, molto molto stridente tra le istituzioni, in questo caso tra Berlusconi e il Quirinale. Tanto che il punto di Stefano Folli, dopo l'intervento del Quirinale, Berlusconi non può più tacere, è proprio esplicito. Poteva rinviare Berlusconi a tempi migliori la legge sulle intercettazioni in accordo col Quirinale. Sarebbe stata una mossa saggia. Invece si è impuntato chiedendo alla maggioranza di presentare il testo alla Camera il 29 luglio. Risultato: difficilmente il Presidente del Consiglio otterrà quello che vuole. La legge non passerà, nonostante il tentativo di prova di forza, a meno di uno scontro col capo dello Stato, che a questo punto sarebbe l'errore più grave da parte di un premier indebolito e forse logorato. La giornata di ieri sotto questo aspetto è illuminante. Se Napolitano ha deciso di agire in questi termini, scrive Folli, vuol dire che ritiene la situazione molto deteriorata. E ripeto, qualsiasi commentatore politico, leggiamo Francesco Verderami sul Corriere della Sera, Berlusconi ha intuito di essere nell'angolo, il rischio di una crisi di governo sulle intercettazioni è dietro l'angolo. Così inizia Francesco Verderami il suo punto quotidiano sulla politica. Con la sua sortita, Napolitano ha tagliato fuori persino Bossi, che era andato a trovarlo nel tentativo di agevolare un compromesso. E tra l'altro Verderami scrive: non servirà attendere agosto per verificare se c'è questa addirittura possibile crisi di governo. Basta attendere la prossima settimana, perché la Commissione Giustizia della Camera inizierà a votare la riforma ed è pronto l'emendamento che potrebbe far saltare il banco, una modifica che estende a 2 anni il limite di indagine. Numeri alla mano, i finiani potrebbero mandar sotto l'esecutivo ed è una minaccia realistica. E infatti il titolo è proprio questo: Berlusconi al bivio, rischio agguato già in commissione. Ieri c'è stato un vertice serale con Berlusconi, che era entrato dalla sua visita di Stato, diciamo Brasile, Panama, prima Canada, per parlare appunto di cosa fare. C'è Nicolò Ghedini, che è uno dei grandi ispiratori di questo disegno di legge, che a pagina 2 del Corriere della Sera fa un'intervista nella quale critica un po' istituzionalmente la mossa di Napolitano, perché alla domanda il presidente Napolitano dice che ci sono alcuni chiari punti critici nel testo, ecco cosa risponde Ghedini: questa è una novità dal punto di vista istituzionale. I rilievi? No. La valutazione del capo dello Stato non è su problemi di natura tecnica, altrimenti dovrebbe farsi eleggere. forte questa frase. La valutazione è sulla costituzionalità. Le criticità tecniche esulano dalla sua competenza. Però ci sono state le audizioni, il procuratore antimafia Piero Grasso ieri lo ricordava, è stato molto critico. Le audizioni sono sempre fatte per sollevare criticità che nel tempo si dimostrano giuste o infondate, risponde Ghedini. È successo anche nel caso della riforma del codice, poi il Parlamento decide e vota, il Quirinale valuta la costituzionalità, lo può rinviare alle Camere, magari glielo rinviano, eventualmente se ne occupa la Corte Costituzionale, insomma questo è tutto l'iter fisiologico. Ghedini però dice i rilievi tecnici da parte di Napolitano sono una novità istituzionale, per farli dovrebbe farsi eleggere. Insomma, avete capito che il clima è questo, anche Liana Milella su Repubblica, così come anche Federico Geremicca sulla Stampa. Il titolo più esplicito di così non poteva essere: la pazienza del Colle sta finendo. Federico Geremicca, presidente della Repubblica, non può dire che alla misura è colma, però può farlo intendere, lasciando anche capire che per quanto lo riguarda l'ora dei giochini è vicina la fine. Ed è precisamente questa la via imboccata ieri da Giorgio Napolitano. Tanto che, diciamo, Napolitano ha trovato una sponda nelle critiche nello stesso Fini, che ieri è tornato all'attacco, ha detto molto critico nei confronti del disegno di legge di intercettazioni, e la prima pagina di Libero in questo ancora oggi è esplicita: Fini, falla finita, ormai non si contiene più, la Lega è un problema, dissento dal PDL, che bella la prima Repubblica, gli azzurri vogliono cacciarlo. Questa è l'analisi di Libero. Gianfranco sbrocca a pagina 2 e 3. Che cos'è il punto che ha fatto titolare così Libero? C'è stato ieri un incontro, e c'è da dire un incontro pare molto teso, pubblico, ne abbiamo sentito anche qualche stralcio nel GR, tra Fini e Sandro Bondi. Il Corriere della Sera, visto che tra l'altro Pierluigi Battista era il moderatore di questo incontro, Pierluigi Battista del Corriere della Sera, fa un resoconto di quello che si sono detti a pagina 6. Duello Fini-Bondi, volano parole pesanti. Fini che attacca sui casi Brancher, sulla sudditanza del partito verso la Lega, sul diritto al dissenso. Sandro Bondi che risponde: sono amareggiato. Fini che dice: non si può dire segni la linea, se no sei fuori. Dico una cosa un po' cattivella, ma le espulsioni per eresia accadevano nei partiti non liberali, nel PC, nell'MSI. Bondi che replica: qui c'è un problema di fondo, rischia di diventare serio impedimento al partito unitario. E poi ancora sul disegno di legge sulle intercettazioni, Fini che dice: noi dobbiamo ascoltare Pietro Grasso, e Bondi che risponde: ma Pietro Grasso non è il Vangelo. E Fini sulla legalità: non possiamo avere un sottosegretario cosentino per il quale è stato chiesto l'arresto per gravi reati, dobbiamo essere come la moglie di Cesare, al di sopra di ogni sospetto. Bondi che replica: ma come si fa, i dirigenti si difendono. Insomma, un vero e proprio scontro verbale, tanto che questo viene evidenziato anche in prima pagina del Foglio di oggi. Moratoria del Quirinale sulle intercettazioni, stallo con risse nel PDL. La rissa è proprio la scintille tra Bondi e Fini. E il Foglio, nella sua nota politica, dice: cosa farà adesso il governo che aveva dato l'impressione di accelerare? La marcia indietro è ingranata sul disegno di legge intercettazioni, salvo contrordine del Cavaliere. Le modifiche si faranno, l'alternativa è uno scontro istituzionale che non troverebbe sostegno certamente in Fini, né tantomeno nel nordista fronte rappresentato dal partito di Umberto Bossi. Si arriverebbe a una crisi che nessuno sembra ancora volere. Vedete che tutti parlano a questo punto di un bivio: o si va allo scontro forte col rischio di crisi, oppure da parte di Berlusconi questo disegno di legge di intercettazioni c'è un po', ci deve essere una frenata. E poi racconta questo scontro Bondi-Fini il Foglio, nel quale Bondi alla fine è stato sentito sussurrare: lo dico con dolore, ma a questo punto è dura continuare così, si farà un congresso ma senza accordo, sarà quello del divorzio. Così scrive il Foglio, proprio tra l'altro nel giorno ieri in cui i giornalisti sono andati in piazza. Tra l'altro in piazza c'era anche chi? Patrizia D'Addario, che sta tornando alla ribalta. L'abbiamo sentita alla Zanzara qualche giorno fa, l'ho vista in TV. Ora sei appunto presentata anche a manifestare in piazza con i giornalisti e con la gente comune, tanto che il presidente del sindacato dei giornalisti ha detto non è il simbolo della protesta, per carità, non bisogna identificare questa protesta con la Daddario che è venuta per farsi pubblicità, tanto che Libero dice usata e gettata. La Daddario va in piazza col sindacato giornalisti, si autocandida con l'Italia dei Valori, ma viene scaricata da tutti, non la vogliamo. Questo a pagina 6. Mentre Berlusconi, che era entrato ieri, c'è questo giallo che viene rilanciato dalla Stampa. In realtà la Stampa brasiliana l'ha evidenziato soprattutto su un giornale, O Estado de San Paolo, peraltro smentito totalmente da Palazzo Chigi, ma sulla Stampa viene ripreso questo presunto scoop del primo quotidiano brasiliano. Berlusconi in Brasile si è concesso una notte di lap dance con 6 ballerine. 6 ballerine per Berlusconi. Le ragazze, c'è questa Alexandra che della lap dance ha fatto la sua professione, che racconta di essere stata ingaggiata per poco meno di 1.000 euro, conferma di al momento di non sapere dell'ingaggio nulla riguardo all'illustre invitato. Pare che abbia fatto questo spettacolo nella suite dell'hotel di Berlusconi, insieme ad altre 5 ballerine selezionate, qualcuno parla di escort, poi lei dice io sono andata via, ma le 5 ballerine so che sono rimaste fino a tarda notte. Il Quirinale, Palazzo Chigi ha fatto una secca smentita dicendo per carità, erano solo danze folcloristiche di uno degli eventi organizzati nell'ambito, insomma, degli incontri di Stato. Avrà fatto questa nottata con 5-6 ballerine, chi lo sa, questo è il nuovo giallo, insomma, si fa per dire, che accompagna la visita finita di Berlusconi in Centro e Sud America. Lasciamo la politica, che come vedete però no, è alimentata da questo scontro che pareva sotto traccia, ora sembra sempre più profilarsi all'orizzonte sul tema del disegno di legge intercettazioni. E veniamo invece a quello che è il giallo, o meglio il tema economico, che è un tema economico sulla tassa sanità da 630 milioni che oggi il Sole 24 Ore spiega bene a pagina 3. È un salasso che dovrebbe arrivare per 4 regioni, una maggiorazione di IRPEF e IRAP per coprire i disavanzi di che regioni? Lazio, Campania, Molise e Calabria. Arriva, scrive Roberto Turno, la super stangata IRPEF e IRAP da 620 milioni totali per i cittadini e le imprese delle 4 regioni coi conti della sanità in profondo rosso. Ancora una volta la sanità in profondo rosso fa pagare Lazio, Campania, Calabria e Molise, come detto. Era un'anticipazione che, scrive Turno, ormai è confermata come una gelata arrivata ieri con un comunicato scarno del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia. Bisogna mettere mano al portafoglio per sanare, visto che queste regioni sono state buttate nel rosso dalla sanità. Arriverà una maggiorazione, ripeto, di 629 milioni totali per cittadini e imprese di Lazio, Campania, Molise e Calabria. Se ci state ascoltando da una di queste regioni, siete cittadini, siete gli imprenditori, sappiate che è così. Questo è l'intervento sui deficit regionali. Ma come detto, invece il vero giallo che ieri si è diffuso per qualche ora è quello sulle pensioni. Per qualche ora si era diffusa l'idea che ci fosse una stretta al Senato, cioè non bastano i 40 anni di contributi per ottenere la pensione a partire dal 2016, perché bisognerà adeguare la pensione all'aspettativa di vita, non tanto al numero di anni lavorati. Se si vive di più, l'aspettativa di vita è certificata dall'Istat, bisogna maturare più contributi per la pensione. Addio 40 anni di contributi, poi lo stop. Ecco il giallo, cioè è apparso questo emendamento del relatore alla manovra Azzollini, nel quale si prefigurava questa idea. Dopodiché, in serata, racconta Dino Pesole, il ministro del welfare Sacconi, con una retromarcia, ha definito no, è un refuso. Quell'emendamento è un refuso, verrà ritirato. L'adeguamento alle aspettative di vita dal 2016 non c'è, è stato un errore, un po' tutti i giornali dicono ma come un refuso, in realtà alcuni giornali come Repubblica dicono ci ha provato il governo ma gli è andata male, c'è invece Elsa Fornero, grande esperta di pensioni, professoressa, banchiera, insegna a Torino, è vicepresidente d'Intesa, intervistata a pagina 9 della Stampa, che dice: ma in realtà l'idea è buona, cioè allungare la vita lavorativa è necessario, questo è il grande tema su cui ci si interroga da sempre. Certo, dice, in quella direzione bisognerebbe muoversi, allungare la vita lavorativa è necessario, ma bisognerebbe farlo in modo più trasparente, evitando certe rozzezze, dice Elsa Fornero. Mentre Angeletti, sempre a pagina 9, intervistato, dice: non si possono chiedere ancora sacrifici. La proposta ritirata? Un errore, spero. Così dice Angeletti della UIL. In primo piano. Festino con coca e trans. Consigliere PDL apre la finestra e improvvisa un comizio. Beh, questo è il titolo del Messaggero, il Messaggero a pagina 8, ma c'è su tutti i giornali la vicenda che ha coinvolto il consigliere del Popolo della Libertà della provincia di Roma, Pierpaolo Zaccai. Anche il Corriere vi dedica un'intera pagina: coca e trans, show del consigliere sul balcone. Che cosa è successo? Ovviamente è tutto da chiarire. Ma insomma, i particolari che si sanno è che alle 6 del mattino di ieri è stato ricoverato Pierpaolo Zaccai, 42 anni, consigliere appunto della provincia di Roma, lunga militanza, leggo dal Messaggero, a politica a destra, vasta esperienza amministrativa alle spalle, alla fine di un festino nel quale, secondo gli inquirenti, circolavano, e secondo le testimonianze anche di alcuni transessuali presenti, credo 3 o 4, circolava della coca, circolava della cocaina. Ora, lui ha detto: sono stato incastrato. A un certo punto ha urlato alla finestra: sono stato incastrato, qualcuno vuole stroncare la mia carriera politica. Poi dopo, secondo il Corriere, ha confessato: ho fatto salire in macchina Morgana. Morgana è il nome di questo trans. Siamo andate a comprare cocaina, poi a prendere un altro trans, Giuliana. Più tardi, verso le 3 e le 4, quelli hanno preso un computer, i telefonini, così ho temuto che volessero filmarmi e mi sono ribellato. Ecco che allora, insomma, sembra proprio una vicenda similare a quella di Marrazzo. C'è la testimonianza di questa Morgana sul Messaggero che dice: lui in realtà mi fa paura, lo frequento da 4 mesi, non sapevo neanche che era un politico, ma gira con la pistola. Una volta mi ha anche picchiata. C'è il profilo di chi sia Pierpaolo Zaccai sul Corriere della Sera: Zaccus il gladiatore. Non è chiaro cosa spinse l'articolista del magazine Ostia Città nel 2006, lanciandosi in un panegirico di Pierpaolo Zaccai, a chiamarlo Zaccus il gladiatore, esaltandone le doti strategiche e la pazienza, ma soprattutto citandone il motto: il futuro è sulla punta del mio gladio. Poi ci sono dichiarazioni degli uomini politici che l'hanno anche visto crescere politicamente. Storace: se va coi trans sono affari suoi, ma la droga no, chi viene dalla storia del movimento sociale non può permettersi di essere un drogato. Si ricorda che Zaccai fu capofila della battaglia per fare i narcotest a tutti gli uomini politici, cioè i test antidroga. Lui però in realtà ieri in ospedale ha rifiutato di sottoporsi al test antidroga. C'è chi ricorda per esempio che era un uomo molto paziente, ma invece chi racconta che una volta scagliò in testa una sedia a un consigliere, Fernando Calderari. Chi lo descrive schivo e riservato, chi invece va a pescare una sua vecchia trasmissione di Forum, nel quale inscenava una litigata con la sua presunta fidanzata. Insomma, c'è ovviamente il profilo di questo Pierpaolo Zaccai, ci sono anche le foto, abbiamo sentito anche nel GR, le foto che lo ritraggono vicino a Papa Wojtyła, la foto in divisa militare, grande amante della palestra, del pugilato, dei corsi antiterrorismo, è anche fondatore della confraternita dei cavalieri di Anco Marzio, molto religioso, così descritto. Vabbè, vedremo un po' se è un nuovo caso, ovviamente in piccolo per il ruolo politico istituzionalmente meno importante rispetto al caso Marrazzo. Io vi ricordo il tema del nostro sondaggio, che è un tema che trovate affrontato moltissimo sui giornali, vale a dire: 2 giorni fa Gaetano De Carlo, 55 anni, carrozziere, dopo aver collezionato una serie di denunce per stalking, ha ucciso 2 sue ex fidanzate e poi si è tolto la vita. Non è purtroppo l'unico caso, ce ne sono tanti, ce ne sono sempre di più di molestatori che si trasformano purtroppo in questi casi anche in omicidi. Ovviamente la legge sullo stalking, che è in vigore da 1 anno e mezzo, secondo alcuni è sul mirino, è nel mirino. Mara Carfagna, il ministro che l'ha fortemente voluta, la difende oggi sulla stampa in un intervento molto conciso. La legge previene i delitti. La tragica fine di Mara e Sonia, scrive il ministro Carfagna, è un'ulteriore conferma che lo stalking non può e non deve essere considerato un reato di serie B, ma un reato di serie A di elevata pericolosità sociale, da contrastare con rapidità e decisione. Certo che però tutti fanno notare che non basta una legge. Giulia Bongiorno, che anche lei si occupa molto di questo tema, intervistata al Corriere della Sera, dice: mai tollerare le violenze, bisogna denunciare subito, perché la legge funziona. La legge è dimostrato con il numero di arresti sempre maggiore che funziona. Certo, le norme sono molto recenti e certo, difficilmente una legge è il rimedio contro tutti i mali, ma le norme sullo stalking funzionano, dice Giulia Bongiorno. E così tutti ricordano, insomma, questa vicenda. Repubblica vi dedica le tre pagine centrali di R2. Stalking, l'amore fatale. Ci sono anche i consigli del colonnello Giorgio Stefano Manzi del reparto analisi criminologiche del RACIS, i 10 consigli soprattutto alle donne: avere un atteggiamento critico, denunciare, uscire dall'isolamento, evitare ogni contatto con l'ex, non frequentare i luoghi condivisi, depistare, far sapere che non si è soli, dunque non nascondere allo stalker una nuova relazione, non perdonare mai alcun tipo di maltrattamento. Il tema è questo. Certo, ci sono anche interviste invece di donne che dicono: succede anche a me da tot anni e non riescono a fermarlo. Non riescono a fare niente. Allora, questo è il tema del nostro sondaggio. Secondo voi la legge sullo stalking vi rende più sicuri? Vi rende più tutelati? Ovviamente sarebbe più dire più tutelate, più sicure, visto che la tipologia dello stalker è di un uomo che molesta una donna. Percentualmente non è sempre così, a volte ci sono ovviamente anche donne che perseguono uomini, però purtroppo, soprattutto quando si tratta di omicidi, sono gli uomini che uccidono le donne. Votate su Radio24.it, ne parleremo poi alle 8.30, mentre per quel che riguarda le segnalazioni conclusive segnalo questo: volete per caso sapere dal vostro DNA quanti anni potreste vivere? L'elisir di lunga vita è già nel DNA. Lo leggo dal secolo XIX, ma anche il Corriere della Sera vi dedica mezza pagina. Centenari si nasce, il segreto in un gene. C'è un test che andrà a valutare la firma genetica C4, quella che indica la longevità tendente a superare i 106 anni. Chi ha C4 potrà vivere fino a 106 anni in questo test genetico. Si potrà calcolare con il 77% di probabilità di azzeccare quanto si potrà vivere, predire la lunga vita con il 77% di probabilità di successo con un test. Chi avrà C4 potrà vivere fino a 106 anni, chi avrà tra C16 tra i 99 e i 106, chi è tra C6 e C9 potrà vivere dai 100 in poi. Io non so voi, ma questo test sinceramente non lo farò mai. Detto questo, se volete, quando arriverà il test, pubblicato da Science e condotta da un'equipe in parte italiana, tra l'altro questo studio, che dice c'è un test che ci fa scoprire quanto potremo vivere, certo, salvo imprevisti, insomma, se uno ha una vita sana e non succede nulla, si può sapere se si sarà centenari oppure no. Alle 8:19 minuti, eccoci nuovamente in diretta con Deborah Rosciani. Soldi e dintorni. E voilà. Voilà, buongiorno. Qua. Buongiorno. Buongiorno a tutti. È tardissimo oggi, ti rubo subito il microfono. Quella roba lì. Ciao. Allora, parliamo di multiproprietà questa mattina. Un vero e proprio boom per questa tipologia di contratti negli anni 90. Contratti che permettono, per chi conosce questa forma, di godere di una casa in montagna o al mare per alcune settimane dell'anno senza gli oneri di una proprietà immobiliare a tutti gli effetti. Negli anni 90 i contratti di multiproprietà si sono ridotti drasticamente per scegliere scendere ulteriormente poi nell'ultimo decennio, ma si calcola che fra il 1980 e il 2000 circa 130 famiglie italiane abbiano sottoscritto un contratto di questo tipo, anche se larga parte di queste famiglie sono ampiamente soddisfatte di questa forma di proprietà, per l'appunto, per tante ragioni, per pagamenti di oneri accessori, per difficoltà a recedere dal contratto, a volte perché qualcuno è incappato in vere e proprie truffe. Una di queste è stata scoperta dall'avvocato Giovanni Longo, legale di Confconsumatori di Pisa, che saluta. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a voi. Dopo averla scoperta, naturalmente, è andato in tribunale e ha ottenuto un'importante sentenza. Ci spiega intanto che cosa è successo, perché mi risulta che due consumatori siano venuti appunto da lei raccontandole che avevano avuto prospettata la possibilità di acquistare un soggiorno in multiproprietà. Loro non la volevano assolutamente e però invece si sono trovati proprietari di questa porzione di abitazione. Dove intanto, avvocato? Tengo a precisare che questo è un caso limite, anche io insomma non voglio dire che tutti i multiproprietà, tutte le forme di multiproprietà sono truffaldine. Questo è intanto un caso degno di attenzione, in quanto non è un caso isolato. Purtroppo quelli che poi emergono sono pochi rispetto a quelli che effettivamente sono svolti. Questa era un multiproprietà che doveva esistere, doveva essere edificato alle Canarie. I due soggetti, due giovani sposini, fra l'altro insomma famiglia monoreddito, senza alcuna velleità di diventare proprietari di immobili, sono stati invitati, così come è frequente in varie tipologie di questi tipi di contratti, in un ristorante per avere una cena gratis, all'esito della quale li sarebbero stati prospettati, senza alcun obbligo di acquisto, varie tipologie di prodotti, le classiche coperte di lana merinos, batterie di pentole, e fra queste anche la prospettazione di questi multiproprietà. I soggetti naturalmente non avevano assolutamente intenzione di sottoscrivere alcunché, gli è stata fatta apporre una firma garantendole che doveva servire semplicemente come una loro richiesta per rilevazione di dati, ulteriori informazioni in un periodo successivo. Il giorno dopo, il giorno esattamente dopo, sono presentati a casa di questi due ignari e, mi permetto, anche un po' ingenui soggetti, i venditori, i quali li hanno minacciati di che se non avessero sottoscritto il contratto avrebbero dovuto pagare non si sa quale bene specifica penale di 3.000 euro. A questo punto l'alternativa era o perdere 3.000 euro senza ottenere nulla, o sottoscrivere loro malgrado questo contratto per poi fare le loro agognate vacanze in questi mesi. Come è finita, avvocato, rapidamente, perché già è il tempo ci sta volando? Il giudice, dopo una lunga diatriba in tribunale, ha dichiarato nullo il contratto, annullato il contratto, intravedendo la responsabilità del soggetto del venditore di multiproprietà per dolo. Il dolo consiste in artifici e raggiri che hanno indotto loro malgrado questi soggetti, che senza queste minacce non avrebbero senz'altro sottoscritto. Quindi insomma, rimarchiamo ancora una volta, se venite invitati a cene di questo tipo non firmate niente, perché tanto o la multiproprietà o un'enciclopedia a casa qualcosa ve lo ritrovate. Detto senza questo, avvocato, ecco, sperando infatti che truffe di questo tipo siano sempre più limitate, il tema è anche se uno comunque acquista consapevolmente una multiproprietà, qualche volta recedere da questi contratti diventa molto difficile, perché comunque la rivendita della porzione di proprietà è complicatissima, perché forse c'è proprio poco mercato in questo momento. Sì, esattamente. Allora, va premesso che la nostra legislazione italiana prevede la possibilità di recesso, ma è assolutamente breve, sono 10 giorni dal momento della sottoscrizione del contratto, quindi capirà bene, uno in 10 giorni non fa nemmeno in tempo andare a vedere di cosa si tratta, quindi come fa a dire successivamente non è di mio gradimento o meno. Laddove il periodo del recesso viene meno, il problema, la difficoltà aumenta, come nel caso che ho affrontato io, cioè scaduti 10 giorni, di fatto uno dovrebbe tenersi il multiproprietà. Ecco che allora affiorano e si fanno presenti delle società, e questo io dubito anche sulla loro legittimità di agire, eccetera, dove si offrono loro, naturalmente a pagamento, di riporre, di ricollocare il nostro bene, che è un bene così come noi l'abbiamo pagato poco, perché è una porzione di immobile, così anche nel momento di quando uno va a rivenderlo, le difficoltà del mercato ci sono e sono evidenti, perché occorre trovare esattamente l'acquirente che gli vada bene la località da noi scelta, ma soprattutto il periodo temporale che è il nostro possesso, quindi succede spesso ovviamente. Perché non è che poi il periodo si possa scegliere totalmente liberamente, tutt'altro, bisogna purtroppo mettersi d'accordo con tutti gli altri proprietari. La proprietà acquista uno spazio temporale, chiaramente sono una settimana, 10 giorni, c'è la possibilità, per rendere più allettante l'offerta, viene prospettata che si può in una sorta di catalogo scegliere o scambiare questi periodi. La cosa è assolutamente difficile e complicata, perché bisogna incontrare, cioè un incontro di volontà fra due soggetti, uno che cede e uno che acquista, e soprattutto non viene quasi mai specificato che questo cambio di date è oneroso, costa. Infatti. Cioè la società che colloca, che fa da intermediario naturalmente il giusto compenso. Quindi avvocato, anche... mi rimane veramente pochissimo tempo, qualche secondo. Adesso forse appunto i contratti di multiproprietà tipici degli anni 80 sono molto in calo, adesso ci sono vacanze di altro tipo offerte secondo questa formula, il time sharing, le vacanze a punti, cambia solo il nome, sono proposte realmente differenti? No, non cambia il nome, sono assolutamente differenti, in quanto l'antica, l'originale multiproprietà immobiliare non diventava quantomeno proquota proprietario di un immobile, seppur limitato nello spazio e nel tempo. Queste nuove forme in realtà uno diventa, e sono cose assolutamente complicate di difficile comprensione, uno entra a far parte di un club, ma lui non diventa proprietario di alcunché, acquista una quota associativa che non si sa bene quanto valga a livello proprio anche economico, e entra in questo circolo, in questo club, gestito da un'altra società, spesso sono società che hanno sede legali all'estero, quindi introvabili, raggiungibili, eccetera, e gli viene dato un catalogo quasi come quello del fotografico, tipo agenzia di viaggi, dove uno teoricamente potrebbe scegliere la propria vacanza. Questi contratti, gli ultimi che sono sotto questa attenzione, sono veramente di difficile comprensione, bisogna stare molto attenti, anche perché non viene nemmeno specificato il periodo per cui è possibile usufruire. Avvocato, io purtroppo devo fermarmi, magari la richiamo per salvadanaio, la metto insieme anche ad una società e dovremo cercarne qualcuna con la quale magari appunto attivando un rapporto di questo tipo. Invece la multiproprietà appunto funziona molto bene, perché sono sicura che ci siano anche ovviamente queste forme perfettamente efficienti. Buona giornata, a presto e buon lavoro. Alessandro, oggi mi occupo di borse, fine di una settimana che è stata un po' turbolenta per i mercati finanziari, e quindi ripercorreremo un po' quello che è successo. Buona giornata, ciao. Grazie, ovviamente anche buon weekend. Noi parleremo alla luce di questo duplice efferato omicidio. Due giorni fa un uomo che ha ucciso due sue ex fidanzate, poi si è tolto la vita, del reato di stalking, un reato di molestie. Vi chiediamo nel nostro sondaggio di oggi: da quando c'è questo reato vi sentite più tutelati dalle molestie? Sono le 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, e allora parliamo nel nostro sondaggio di oggi di stalking. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Beh, certo, se oggi prendete qualsiasi giornale ci sono ancora gli sviluppi di questa drammatica vicenda. Purtroppo sono l'ultima in ordine di tempo. Gaetano De Carlo, 55 anni, carrozziere, padre di due figli, nei giorni scorsi ha ucciso due ex fidanzate nel giro di 12 ore, poi si è tolto la vita. E ovviamente ci si interroga, come avviene in tutti questi casi, ma visto che c'è una legge sullo stalking, una legge in vigore da un anno o poco più, una legge che oggi il ministro Mara Carfagna sulla stampa in un intervento dice ha portato dei frutti, perché da quando c'è ci sono stati 1216 arresti, 7000 denunce, cioè ci sono gli strumenti per denunciare contro le molestie che spesso purtroppo si trasformano anche in forza brutale, anche in forza omicida. Noi vi chiediamo, vi sentite più tutelati da quando c'è questa tipologia di reato? Dovete votare su radio24.it. Ne vogliamo parlare con tre ospiti. Intanto saluto Roberta Bruzzone, criminologa, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Tra l'altro voglio anche ricordare, conduttrice su Discovery Channel di Donne Mortali. In quel caso insomma la situazione è ribaltata, sono donne che uccidono, purtroppo invece in questo caso sono soprattutto gli uomini che uccidono le donne. Voglio salutare anche la professoressa Anna Boldri, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno a tutti. Insegna psicologia sociale a Napoli ed è responsabile del sportello anti-stalking Astra. E un magistrato, Fabio Roia, benvenuto Roia, ben ritrovato. Buongiorno. E tra l'altro consigliere del CSM, ma di questi temi si è occupato molto. Bruzzone, io tra l'altro ieri ho visto una sua intervista al Secolo XIX, ma molto colpito. Lei, oltre a essere criminologa, ha raccontato anche di essere, credo, vittima da un paio d'anni di questo fenomeno. Sono vittima di una tipologia di stalking estremamente pericoloso da circa 2 anni. Ahimè, la persona che esercita stalking nei miei confronti, tra le altre cose, ha un aggravante ulteriore perché indossa una divisa. E questo purtroppo fino ad oggi l'ha protetta abbastanza. Che cosa fanno? Perché tutti ci si chiede, si può fare qualcosa in più da quando c'è questa legge? Certo, si può denunciare, c'è un reato. Beh, indubbiamente sì, ci sono più strumenti di carattere istituzionale, sicuramente in fase penale qualche strumento in più c'è. Il vero problema non è la legge di per sé, che francamente io ritengo comunque perfettibile da operatore del settore. Il grosso problema è che molti degli allarmi, molte delle segnalazioni, molte delle denunce non destano il necessario allarme che molti di questi casi purtroppo invece portano con sé. Ciò che manca, io ritengo, sia una valutazione effettiva della pericolosità dello stalker con cui si ha a che fare di volta in volta. E questa, secondo me, dovrebbe essere preliminare a qualunque atto di natura difensiva e legale che la vittima può intraprendere. Cioè, l'atteggiamento, mi sembra di capire, anche quando lei ha fatto le denunce, è sempre la mia parola contro la sua, e questo è un po' l'atteggiamento ancora forse culturale che riesce poco a essere interrotto. Arrivare agli estremi in assenza di testimoni, in modo tale che la vittima si trovi in qualche modo scoperta da questo punto di vista negli atti più gravi. Per mia fortuna e con grande supporto anche dell'associazione di cui faccio parte, perché sono consulente forense di Telefono Rosa da diversi anni, con l'aiuto delle colleghe, con i consigli anche da parte degli avvocati di Telefono Rosa, siamo comunque riusciti a ottenere una serie di situazioni, quantomeno a ottenere che questa persona non avesse più accesso a me diretto. Però prima di arrivare a questo io ho dovuto cambiare casa 3 volte, capisce? No, questo certamente sì, vuol dire vivere in una situazione di perenne tensione, di perenne minaccia, come è successo per esempio a proprio questo caso un paio di giorni fa. Una delle due donne che Gaetano De Carlo ha ucciso era una donna che aveva addirittura cambiato casa proprio per evitare di trovarselo di fronte. Io vorrei, da Fabio Roia, visto che lei è magistrato, ci chiedono già nei messaggi anche, non si può in questo caso rispolverare il concetto che spesso in una società garantista giustamente viene accantonato di carcerazione preventiva in attesa del processo? Cioè, che cosa si può fare se c'è una denuncia? Come si può fermare, visto che non si può blindare una persona, non si può farla seguire da uomini in divisa per vedere dove va? C'è chi parla di braccialetto elettronico, c'è chi dice facciamo la carcerazione preventiva, se no ci sono casi come quelli di 2 giorni fa. No, casi come quelli che sono capitati 2 giorni fa non devono assolutamente succedere. L'ordinamento ha gli strumenti per evitare che succeda. In questo caso bisognerà valutare, qui lo dico forse anticipando una notizia, anche se ci sono delle responsabilità eventuali del magistrato che procedeva, perché in presenza di una serie reiterata di denunce è chiaro che ci deve essere una valutazione della pericolosità della situazione, della pericolosità dell'agente violento che in prima battuta deve fare il pubblico ministero, e in relazione alla quale eventuale pericolosità può e deve chiedere delle misure a tutela della donna e di contenimento dell'autore. Quindi del ci reato. Può dire che poteva, nel caso, se adesso vedremo la procura di Crema, dove era stato denunciato credo 7 volte, anche evidentemente alla luce della nuova legge predisporre un arresto della persona? Poteva chiedere una serie di misure, da quella estrema che in alcuni casi va chiesta, che è la custodia cautelare in carcere, a quella più lieve introdotta da questa nuova legge, che peraltro c'era sotto altra denominazione, che è quella per esempio del divieto di frequentare i luoghi normalmente vissuti dalla vittima del reato. Tenga presente, questa è la difficoltà di questo reato, come in genere di tutti i reati dove c'è un profilo di pericolosità sociale, che proprio la difficoltà che riscontra il magistrato è la valutazione prognostica del comportamento di una persona. In altre parole, noi lavoriamo su strumenti empirici per valutare la pericolosità di una persona, perché una persona, facciamo l'esempio dello stalking, per esempio ammonita, c'è un nuovo strumento nella nuova legge sullo stalking che prevede l'ammonimento, una sorta di richiamo che può fare il questore a uno che compie atti di molestia, può avere un effetto tranquillizzante su una persona e quindi interrompere l'attività violenta, ma in alcuni casi può avere un effetto criminogeno e quindi accentuare i casi di violenza. Il problema è appunto quello, perché sa, l'ammonimento oppure non dire non frequentare alcune località, e vabbè, ma poi chi può controllare, voglio dire, una persona? No, più che controllare bisogna avere la capacità di valutare se quel tipo di misura è efficace in relazione al caso e quindi alla personalità del soggetto, il che è estremamente difficile. Estremamente difficile anche perché nel nostro sistema, io vorrei qua dirlo, non sono consentite perizie esclusivamente sulla pericolosità sociale. Laddove non c'è un profilo di incapacità di intendere e volere, non si possono fare perizie che studino la psicologia comportamentale dell'indagato. Questo è vietato vietato dalla nostra carta costituzionale. Quindi ovviamente il magistrato fa ricorso a quegli strumenti che gli detta la legge, precedenti, denunce, possesso di armi, uso di stupefacenti e quant'altro. Professoressa Boldri, qui anche la professoressa Bruzzone ci dice: io sono il classico caso di dire la legge serve, però nel mio caso specifico ho dovuto cambiare casa 3 volte, il fatto poi che colui che perseguita è in divisa certo non aiuta, insomma, cioè, la legge certo servirà, ci sono i numeri, ci sono i dati degli arresti, però la sensazione è che quando poi avvengono questi episodi, e guardi che sono, come sa, sono solo l'ultimo di una serie di episodi, si dice: ma allora serve davvero questa legge? Serve davvero denunciare? Sì, ovviamente questo interrogativo noi ce lo poniamo, noi che ci lavoriamo tutti i giorni, ce lo siamo posti sin dall'inizio. Devo dire che per esempio lo sportello anti-stalking di cui sono responsabile, gestito dall'Associazione Differenza Donna alla provincia di Roma, che è stato aperto prima della legge, quindi ottobre del 2007, quando già seguivamo i casi di stalking, quindi facendo un confronto il prima e dopo, devo dire che come strumento in più, anche come opportunità da dare alla vittima, effettivamente sta dando i suoi risultati, anche da parte delle istituzioni, delle forze dell'ordine. Il fatto che ci sia questo reato dà potenzialmente, ma anche realmente, uno strumento in più. Il problema, io lo dico sempre, è anche quello di cercare di spostare un po' il problema, nel senso: è vero che la legge esiste, come diceva consigliere Roia, è giusto anche fare affidamento alla legge, ma il problema rimane sempre l'autore. Nel discorso della valutazione prognostica del rischio, un discorso utilissimo proprio per cercare anche di attuare delle misure e aiutare anche la vittima a intraprendere quelle strade anche per se stessa di tutela, oltre che poi la magistratura e forse l'ordine, per scongiurare una recidiva, più efficaci. Discorso è anche questo, che spesso allo sportello anti-stalking mi chiedono, no, che cosa devo fare, se lo devo denunciare, ammonire. Il discorso è che noi dobbiamo avere la capacità di non sottovalutare questi fatti. Io qui lo devo dire: per quanto ci sia la legge, per quanto ci sia stato e ci sia anche dal punto di vista istituzionale un gran parlare anche di stalking, forse dimenticandoci che il reato ancora molto frequente, che colpisce la maggior parte delle donne che subiscono questi tipi di reati, è comunque ancora il maltrattamento in famiglia, che spesso poi si trasforma in stalking quando poi la relazione si interrompe. La dice lunga su quello che è ancora un po' l'atteggiamento nei confronti di questi tipi di reati. Lei dice che c'è un atteggiamento anche da parte delle donne che dovrebbero avere, posso dire, più coraggio, cioè essere meno, non giustificare il minimo accenno a un qualcosa del genere che poi può degenerare. Non necessariamente questo. Quello che volevo dire, ecco, ho notato sì che a volte le stesse donne sottovalutano il rischio loro stesse, perché essendo un loro ex sperano più che altro che lui desista, che capisca, che cambi, e quindi magari non chiedono aiuto subito, non vogliono denunciarlo perché hanno paura delle ritorsioni, perché si sentono in colpa paradossalmente, quindi questo tempo che prendono per sperare che lui cambi in realtà comporta dall'altra parte un rafforzamento. Vediamo se Roberta Bruzzone, lei si riconosce in questo, cioè per esempio dal giorno della prima, non so, o denuncia o minaccia o concreta, ha subito reagito oppure c'è un'idea? No, io ho reagito immediatamente, anche perché ho ricevuto una minaccia molto grave che non mi lasciava spazio a nessun tipo di ripensamento, e non penso sia un problema di coraggio. Moltissime delle donne che noi aiutiamo come Telefono Rosa sono assolutamente intenzionate a denunciare. Il vero problema è una sorta di sfiducia, lo dico molto francamente, nell'esito della denuncia. Questo nonostante la oggi legge. C'è e perché le donne continuano a morire, e dopo il 612 business sono molte, moltissime. È questo infatti il problema, cioè la legge c'è, però i fatti di cronaca certo sono qui sotto gli occhi di tutti, voglio dire, quando poi avvengono. Sentiamo allora 800 24 00 24 il numero per intervenire in diretta. Sentiamo la prima ascoltatrice, Laura da Brescia. Buongiorno. Buongiorno signor Milan. Dica. L'ascolto tutti i giorni, complimenti. Dica. Senta, la risposta diretta alla domanda sarebbe: sì, sono contenta di questa legge. Sì. Però questa legge colpisce quando la persona o è morta perché è stata ammazzata, oppure riceve delle vessazioni che poi non dimentica per tutta la vita. Io dico che... Non è proprio così. Se ci sono stati 1216 arresti e 7000 denunce, vuol dire che... Quello che andrebbe cambiato è l'atteggiamento di chi riceve le denunce, perché spesso cioè loro dovrebbero rischiare di trovarsi di fronte a una mitomane, a una persona che magari esagera nei confronti di un'altra, e tra le due cose, perdere tempo con una mitomane e perdere una vita, forse è meglio perdere tempo con una mitomane. È l'atteggiamento di chi riceve le denunce che deve cambiare. Quindi sì, delle forze dell'ordine, dei magistrati. Certamente, certamente. Devono dare più credito a chi va a fare queste denunce, perché le donne alla fine, come diceva prima una persona che parlava, non sono prese molto sul serio, allora non hanno neppure voglia di andare a denunciare. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Allora vi chiediamo, lo stalking quando è un reato? Vi sentite più tutelati dalle molestie? C'è da dire tra l'altro che su radio24.it prevalgono i no, cioè non ci sentiamo più tutelati, il 59% dice no. Voglio andare a Cremona, credo, Cremona, sì, da Fabrizio, buongiorno. Fabrizio. Sì, pronto, buongiorno. Dica. Niente, io volevo dire che la vessazione, che io sono un uomo che subisce una vessazione telefonica da ormai 10 anni dalla mia ex moglie. Il solo fatto che sia un uomo non è preso in considerazione da nessuno, malgrado abbia fatto decine e decine di denunce ancora prima che esistesse lo stalking. Oggi con lo stalking comunque ad ogni modo non ritengo, non ho nessun beneficio, anzi. Ha fatto parecchie denunce. Cioè, e che le dicono quando fa le denunce? Niente, mi dicono, come diceva la signora di prima, anche chi riceve le denunce le prende molto alla leggera sul fatto che sia una donna. La magistratura caso, assolutamente non prende in considerazione la cosa. Io sono anni che sono vessato con tanto di registrazioni telefoniche consegnate alla questura, ai carabinieri, ai magistrati, ma nessuno, mai nessuno, le dico, e tutt'oggi continua. Nessuno ha mai fatto niente. Caro Fabrizio, no, ma infatti che sia anche un problema di donne che perseguitano gli uomini, certo c'è. Non so, professoressa Boldri, se esiste una statistica al riguardo. Certo, fanno più, sono numericamente sicuramente più gli uomini che perseguitano le donne, e soprattutto che poi compiono crimini sulle donne. Sì. Questo sì. No, le statistiche, anche quelle del Ministero dell'Interno, dicono circa, per quanto riguarda le denunce, questo ovviamente non vuol dire che il fenomeno sia l'esatta fotografia, perché può essere anche che un uomo, anche nel caso dello sportello che gestisco, ne abbiamo effettivamente di uomini che subiscono persecuzioni, quindi il problema ovviamente noi lo affrontiamo a 360 gradi. Da un punto di vista numerico sono di meno, e purtroppo, perché nessuno vuole avere questo tipo di primato, per quanto riguarda gli omicidi, che sono la forma in molti casi più estrema dello stalking, sono casi di donne uccise. Questo non significa che le persecuzioni, che a volte assumono forme meno estreme di violenza fisica, ma sicuramente anche laddove ci sono persecuzioni a carattere psicologico, sono gravi e vanno certo denunciate. Questo discorso dell'atteggiamento, dove ancora non si riconosce fino in fondo la gravità del fenomeno, si pensano che siano questioni fra ex, è purtroppo ancora diffusa, questo sia nell'opinione pubblica che a volte anche da parte dei singoli operatori, anche se va detto che insomma la legge è da un anno poco più entrata in vigore, sono stati portati avanti corsi di formazione, campagne di sensibilizzazione, purtroppo il cambiamento culturale richiede a volte decenni e decenni, e bisogna arrivare a casi estremi come questi per parlare dal punto di vista dell'opinione pubblica. Noi che ci lavoriamo tutti i giorni sappiamo che questa è la punta dell'iceberg di un dramma che magari non è paragonabile a quella dell'uccisione di una persona, ma che chi subisce questi fatti. Certo, ma avvengono quotidianamente. Io vorrei tornare dal dottor Roia, perché leggiamo oggi sui giornali, per esempio sul Corriere, SMS di minaccia, schiaffi e calci al Labrador, cioè a uno dei, al cane di una delle vittime. Lo stalking dell'assassino durava da 4 anni, tutti sapevano. Ora il comandante di Torino dice non c'è stata nessuna denuncia formale, ma l'avvocato della donna invece parla di esposto che racconta 4 anni di angherie, di le spediva SMS, si presentava a casa, prendeva calci appunto il cane. Voglio dire, certo, lei ci ha già detto che si potrà vedere anche eventuali profili di responsabilità di chi doveva intervenire e non è intervenuto, però sente anche dagli ascoltatori che c'è una generale sfiducia nei confronti delle istituzioni quando si va a denunciare. È una sfiducia che dipende in parte da una non completa formazione, quindi sensibilizzazione sia delle forze di polizia sia della magistratura. Peraltro su questo settore, in generale sulle violenze domestiche, noi stiamo lavorando molto, nel senso che la polizia giudiziaria viene formata e quindi sensibilizzata, la magistratura requirente giudicante viene formata e quindi viene sensibilizzata. Si tratta ovviamente di gestire caso su caso e poi di valutare soprattutto la pericolosità di un caso rispetto ad altri, perché ovviamente noi non possiamo pensare ad una società dove chiunque molesta viene preso e viene messo in carcere. Credo che questa non sia assolutamente la soluzione del problema. Noi dobbiamo pensare ad una società dove i casi più gravi vengono contenuti attraverso una misura carceraria, ma soprattutto, e questo secondo me è la lacuna che manca del nostro ordinamento, manca un piano di intervento terapeutico nei confronti dell'agente violento. Mi spiego meglio. La custodia cautelare in carcere o comunque l'espiazione della pena per definizione ha un termine. Se noi non agiamo da un punto di vista della presa di coscienza del disvalore del gesto violento su chi commette questi fatti, otterremo che questa persona all'esito del periodo di contenimento carcerario, sì, custodiale esce e può ricommettere fatti più gravi. Questo la mia esperienza giudiziaria è successo. Per esempio, che dopo aver espiato una condanna per maltrattamento in famiglia, l'agente violento, non sopportato da un profilo terapeutico, da un progetto terapeutico in carcere, è uscito e ha tentato di ammazzare la moglie o la compagna. Questo è un interessante argomento. Vorrei il parere di Roberta Bruzzone su questo, da criminologa o se vuole anche da vittima di questo reato. Linea con quanto affermato dal consigliere Roia. Obiettivamente, certo, il carcere questo tipo di soggetti non gli aiuta oggi, bisogna dire le cose come stanno, insomma, francamente. Le belle parole che coprono assolutamente antitetiche, direi che è il tempo di abbandonarle. È evidente, serve anche un progetto di recupero di questo tipo di soggetti laddove sia possibile, e io francamente non ritengo sia sempre possibile. Alcune di queste persone sono totalmente ormai votate al loro cortocircuito di violenza e di rivendicazione nei confronti della vita. Però vede, anche quello che è successo 2 giorni fa, sono andati anche i giornalisti a sentire tutti i colleghi di questo Gaetano De Carlo, a dire era una persona che non aveva a meno per noi, non aveva mai dato nessun segnale, cioè gran lavoratore, lavorava 11 ore al giorno, poi sappiamo che gli avevano tolto il porto d'armi, ma togliere il porto d'armi, tanto uno che se ne frega, anche se non ha porto d'armi, tiene la pistola e la tiene lo stesso. Cioè, guardi, se qualcuno decide di uccidere, non è certo insomma, il sequestro delle armi che può impedire a questo tipo di persone di portare a termine il loro piano omicidiario. Insomma, francamente, questo mi sembra una soluzione assolutamente priva di senso. Cioè, quindi, come dire, come identificare la tipologia di stalker e il livello di pericolosità, e io francamente, qui mi permetto di dirlo, ritengo che esistano abbondantemente strumenti per fare questo tipo di attività, però devono essere messi nelle mani di operatori che sanno fare questo mestiere, e questo purtroppo non è così semplice da allargare attraverso semplici corsi di formazione. La mancata preparazione. Sentiamo Luca da Padova, buongiorno. Buongiorno, mi rilascio ai colleghi precedenti, buonissimi interventi. Io ritengo innanzitutto già un primo passo questa legge sullo stalking buona, cioè come prevenzione, poiché il codice penale è tutto repressivo, quindi a noi in Italia, secondo mio avviso, serve una forte necessità di leggi preventive. È vero anche il discorso del recupero, però che sia un ammonimento, che sia insomma un qualcosa, cioè da dare un input a queste persone, attualmente, cioè, come repressivo sembra una serie di impunità, cioè se nessuno fa mai niente uno è portato ad agire sempre e si sente sempre più forte di prima. Sì. È un primo passo, secondo mio avviso, dove è istruito bene funziona. Ma è chiaro che il primo passo, cioè una legge, non è che uno fa una legge e la legge risolve un problema, istituisce una tipologia di reato, si risolve il problema. Poi, soprattutto in una questione come questa che coinvolge la sfera psicologica, ci vuole anche tutta la preparazione di chi questa legge la deve applicare materialmente, quindi il magistrato, le forze dell'ordine, eccetera. Roberta Bruzzone, ci può spiegare che vuol dire vivere, svegliarsi ogni mattina sapendo che c'è una persona che ci vuole fare del male? Beh, guardi, vuol dire vivere guardando sulle spalle sistematicamente, e le assicuro che è un tipo di vissuto che non auguro neanche al mio peggior nemico. Vuol dire tutti i giorni avere comunque un interrogativo di fronte, cioè oggi che succederà? Che cosa mi potrà accadere, che tipo di angherie mi riserva questa giornata da parte di questa persona, perché non c'è neanche non c'è neanche la sensazione di pensare è un periodo positivo in cui so che adesso ha mollato un po' il colpo, cioè non esiste. Ma guardi, è un andamento comunque tipicamente così, a cosiddetta campagna di stalking, sono soggetti che magari operano in maniera più sistematica per periodi, poi apparentemente in certi periodi sembrano aver mollato la presa per poi riprendere in maniera improvvisa e apparentemente inspiegabile. Poi chiaramente se vai ad analizzare lo scenario la spiegazione c'è sempre, consideri poi che io comunque sono ormai molto visibile a livello mediatico, quindi ogni mio successo professionale diventa per lui una sorta di molla che fa scattare, certo, nuovi dispetti, nuove angherie, nuove persecuzioni. Quindi può immaginarsi che tipo di vissuto ha questo, insomma. L'unica cosa che cerco di fare è di proteggere la mia sfera privata, la mia famiglia, mio marito, insomma le persone che mi sono più vicine da questo tipo di soggetto, perché obiettivamente ci ha avvelenato la vita abbastanza. Io mi devo fermare qui ringraziando tutti gli ospiti e gli ascoltatori, in redazione Gaia Romani, e poi vedo Carmelo Lauricella che è apparso in regia e ha dato il cambio a Filippo Aureggi, così è fantastico, insomma c'è la sostituzione come ai mondiali. Vabbè, grazie a tutti, do la linea a Oscar Giannino, ci sentiamo lunedì mattina alle 7:30, buon weekend.